versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our love. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 25 febbraio sono le 16:31 primi e grazie naturalmente per ascoltarci e scaricarci in podcast. Non vedo in questo momento le telefonate, ma vedrò di mettere a posto il computer e vado subito all'argomento del giorno per indurvi naturalmente a telefonarci e darci la vostra opinione all'800 24 0024, mentre invece per gli sms 349 238 6666. Partiamo dalla novità di questa riforma che il governo ha difeso senza, per il momento, vedremo il Parlamento che cosa farà, ascoltare l'opinione nettamente negativa e preoccupata delle rappresentanze associative dei magistrati italiani. Cioè parliamo della nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Innanzitutto, poiché si tratta di cose tecniche, si tratta un secondo di spiegarvi in che cosa consiste la vecchia disciplina e la nuova disciplina e poi di sentire come la pensate voi. Siete favorevoli a questa riforma che in parole povere rende più agevole la responsabilità civile del magistrato per dolo e colpa grave, cioè a risponderne personalmente non solo lo Stato, ma anche direttamente lui come singolo magistrato, vedremo per quale ipotesi, visto che gli italiani che avevano scelto nel referendum del 1987 di essere favorevoli alla responsabilità civile dei magistrati hanno ottenuto nel tempo una norma, quella che è stata vigente fino a questo momento, la legge Vassalli, che era del 1988, che in realtà ha limitato a ridottissimi casi in cui, quelli in cui i magistrati hanno davvero dovuto rispondere loro, mentre lo Stato rifondeva il cittadino italiano che era stato colpito da provvedimenti giurisdizionali, vedremo in quale fattispecie, ma comunque inaccettabili. Ebbene, dal 1988 a oggi solo in 7 casi i magistrati, su oltre 400 ricorsi che c'erano stati per risarcimento e che erano stati ammessi, solo in 7 casi fino a oggi i magistrati avevano dovuto corrispondere dei risarcimenti civili per effetto delle loro decisioni. Allora, che cosa cambia con questa riforma? Nel chiedere a voi se siete favorevoli a questa possibilità di rivalsa più estesa e quindi al fatto che i magistrati più facilmente saranno chiamati a rispondere anche direttamente nei confronti di chi è stato colpito dal loro provvedimento di errori inaccettabili, ma che cosa cambia rispetto alla vecchia disciplina? Allora, com'era la vecchia disciplina? La vecchia disciplina innanzitutto identificava le tipologie per i quali una volta che il cittadino facesse ricorso allo Stato e lo Stato lo rifondesse, quindi era lo Stato che lo rifondeva, lo Stato poi poteva decidere di rivalersi sul magistrato. Resta così anche in questa nuova disciplina, è lo Stato che risponde, però cambia la modalità attraverso la quale si può effettuare la rivalsa sul magistrato. Quando poteva avvenire questo? Poteva avvenire, secondo la vecchia legge, per dolo, colpa grave o denegata giustizia. Cioè, denegata giustizia è il rifiuto, oppure l'aver omesso o aver ritardato da parte del magistrato di compiere degli atti dovuti quando sono trascorsi inutilmente i termini. Questa identificazione di casi cambia con la nuova disciplina, perché nella colpa grave, con la riforma del governo, si introduce una prima cosa rispetto alla quale i magistrati sono molto contrari. Che cosa si introduce? Si introduce nel concetto di colpa grave, oltre a quello che c'era già, cioè la violazione manifesta della legge, oppure affermare nel procedimento un fatto che invece incontrastabilmente non esiste, oppure, questo c'era già, l'aver adottato un provvedimento di limitazione della libertà personale fuori dai casi previsti dalla legge. Ecco, ma si aggiunge un quarto caso che prima non c'era, e questo quarto caso è il travisamento del fatto e delle prove. Apparentemente uno legge questa formula e dice: beh, è ovvio che il magistrato che travisi i fatti e le prove nel procedimento commette un errore intollerabile, e quindi è logico che sia chiamato poi nel giudizio di rivalsa dello Stato a risponderne in termini di responsabilità civile. Ecco, prima considerazione: i magistrati sostengono fermissimamente che entrare nell'esame di che cosa consideri il travisamento del fatto delle prove significa entrare nel merito della piena libertà di interpretazione che al magistrato spetta come parte integrante della propria autonomia e indipendenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale. I magistrati dicono: voi introducete questa nuova categoria ed ecco che a quel punto diventerà un giudizio di merito su come abbiamo interpretato i fatti e le prove, come se fosse una specie di quarto grado di giudizio incentrato solo su di noi. Prima considerazione da esaminare attentamente. Poi, seconda novità: nella vecchia disciplina c'era un filtro per la responsabilità diretta dei magistrati. Che cosa avveniva? Avveniva che di fronte alla richiesta erano gli stessi tribunali del distretto giudiziario a giudicare, a delibare preventivamente se la responsabilità civile del magistrato poteva davvero procedere oppure no, e quindi la stragrande maggioranza dei casi si fermava lì. Ecco, questo filtro salta nella nuova disciplina, e anche qui i magistrati dicono: questo significherà aumentare pericolosamente il grado di richieste di responsabilità civile che ci vengano intentate direttamente, oltre che chiamandoci in causa per come abbiamo interpretato i fatti della legge, anche per incuterci timore. La terza novità è che cambiano anche le proporzioni monetarie nelle quali si può chiamare il magistrato a dover rifondere in termini di responsabilità civile i danni, per così dire, perché nella vecchia legge c'era un doppio limite. Questo doppio limite era che non si poteva prevedere, nei 7 casi dal 1988 che sono avvenuti, pochissimi casi che sono avvenuti, un provvedimento di risarcimento che fosse superiore alla metà di una annualità di stipendio del magistrato, e nella rateazione non si poteva andare anno per anno oltre un quinto dello stipendio dei magistrati. Adesso queste due soglie salgono. No, prima era un terzo e adesso passa a metà dell'annualità, e prima era un quinto come rateazione e adesso arriva fino a un terzo. Quindi i magistrati sono colpiti nella tasca, per così dire, in proporzioni maggiori di prima. Però al di là di questo aspetto, quello monetario, la fortissima contrarietà dei magistrati sta nelle due questioni: il filtro che salta, quello fatto dai colleghi, per così dire, e secondo, soprattutto, questa nuova fattispecie del travisamento del fatto e delle prove. Secondo voi, il travisamento del fatto e delle prove entra davvero nella libera interpretazione che nel corso del procedimento giurisdizionale dobbiamo considerare una prerogativa assoluta del magistrato come pieno rispetto della sua autonomia e indipendenza? Ecco, queste sono le questioni di fondo. Sapete che l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha, fino alla fine, era divisa se fare scioperi o meno. Alla fine hanno deciso una mobilitazione invece dello sciopero, ma la gran parte delle correnti della magistratura considera questo una specie di atto di guerra, nel senso che già annuncia che alla prima applicazione della nuova norma ci saranno, per così dire, atti di solidarietà, in maniera tale da chiedere ai colleghi magistrati che verranno a quel punto incaricati del giudizio di sollevare immediatamente il problema di costituzionalità di questa nuova norma di fronte alla Corte Costituzionale. Spero di aver spiegato in maniera comprensibile le nuove caratteristiche della riforma e di avere anche correttamente riportato le obiezioni dei magistrati. Adesso vediamo la questione, per così dire, interrogando l'altra parte che c'è nei processi, siccome non possiamo ovviamente chiamare un campione rappresentativo degli imputati nel nostro paese, abbiamo chiamato gli avvocati. Quindi abbiamo con noi il presidente dell'Unione Camera Penale, l'avvocato Beniamino Migliucci. Buon pomeriggio e grazie avvocato. Buon pomeriggio a lei, dottore. Innanzitutto le devo chiedere, ho fatto una sintesi corretta o ho commesso errori gravi? Non ha commesso nessun errore, nessuna colpa grave. Ma meno male. Allora, entriamo subito nella questione, perché a me ha molto colpito per esempio oggi l'articolo di Luigi Ferrarella, uno dei principi dei giornalisti di giudiziaria italiana, sul Corriere della Sera, che sposa il punto di vista dei magistrati, cioè dice i magistrati quando dicono che saranno chiamati alla responsabilità civile nel giudizio di rivalsa per il trattamento del fatto e delle prove, davvero esiste il concreto rischio che si colpisca il libero esercizio della libera interpretazione nell'ambito del procedimento. E poi, dice Ferrarella, una legge che non prevede delle sanzioni nei confronti di chi farà richieste intimidatorie e infondate, beh, comunque è il segnale a tutti di fare richiesta di azione di risarcimento. A queste due obiezioni voi come rispondete, avvocati? Beh, che sono considerazioni autorevoli ma sbagliate, nel senso che la norma prevede intanto che non si possa dar luogo a responsabilità per l'attività di interpretazione quando non vi sia del dolo. Poi, seguendo quella che era la richiesta dell'Europa, che aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e che rilevava come non vi fosse mai responsabilità quando gli errori provenissero da valutazioni di fatti o di prove, il legislatore ha ritenuto di dovere inserire il concetto di colpa grave, indicando che il travisamento del fatto o delle prove consista quando si affermi un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, oppure si neghi un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente. Quindi si tratta di una violazione manifesta, macroscopica, evidente, che non richiede alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo. Quindi a me sembra che la norma sotto questo aspetto sia assolutamente rispettosa della possibilità del giudice di interpretare il caso, le norme, i fatti, salvo che si tratti di qualche cosa di talmente eclatante che deve risultare agli occhi. Quindi a me pare che la norma sia chiara e che non venga scalfitto in nessun caso l'indipendenza, l'autonomia della magistratura, che non c'entra niente. Poi vorrei ricordare che, come lei ha esattamente evidenziato, il cittadino si rivolge nei confronti dello Stato e che lo Stato poi può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei magistrati soltanto quando il travisamento del fatto o delle prove siano stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. Quindi lo Stato dopo chiede a un altro giudice di valutare se un magistrato abbia violato quello che dicevamo prima soltanto con una negligenza inescusabile. Quindi a me pare francamente che questi rilievi siano totalmente inesatti. Quanto poi alla possibilità che il dottor Ferrarella evidenzia, e cioè che vengano avviate delle azioni strumentali, anche questo a me sembra che sia una considerazione che può essere contrastata, perché l'azione può essere promossa a pena di improcedibilità, cioè non si può procedere, solo che siano stati esperiti tutti i rimedi endoprocedimentali, ovvero che si siano esauriti tutti i mezzi di impugnazione del provvedimento che si assuma che sia stato emesso in manifesta violazione di legge o a seguito di travisamento della prova del fatto. A me pare invece che questa norma sia una norma equilibrata, che fosse necessaria non solo perché lo richiedeva l'Europa con riferimento esplicito ad alcuni aspetti che venivano rimarcati e quindi si era aperta una procedura di infrazione, ma anche perché io credo che sia corretto che lo Stato paghi nei casi di mala giustizia nei confronti dei cittadini, e l'azione di rivalsa, come ricordava lei, è un'azione contenuta alla metà di un'annualità, esistono le assicurazioni, non credo che sia questo il tema. Ma no, anche perché poi i professionisti, che naturalmente non esercitano la funzione della giustizia che spetta ai giudici e ai pubblici ministeri, però non è che hanno limiti quando poi nei giudizi civili sono considerati, giudicati responsabili di danni che hanno inflitto, non è che a quel punto vale, pagano anche se non c'hanno, fino all'estinzione di ogni loro avere, per così dire. Però certo, io le faccio... La considerazione è talmente esatta, cioè io mi preoccuperei del contrario, cioè noi siamo in un paese che generalmente quando un cittadino ha ragione nei confronti dello Stato non gli vengono liquidate le spese, si va da una commissione tributaria e si ha ragione, le spese vengono compensate, l'ingiusta detenzione, quando l'avvocatura dello Stato si costituisce è rarissimo che qualcuno ponga le spese a carico dello Stato, quindi io mi preoccuperei esattamente del contrario. Adesso io le faccio una domanda, scusatemi tutti, colpo di tosse. Faccio una domanda concreta su un caso che è avvenuto questa settimana e che ha suscitato grandissimo dolore e scandalo, per chiederle se secondo lei con la nuova disciplina è immaginabile, sarebbe applicabile a quel caso oppure no. Sto parlando del caso Eternit, sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione questa settimana, per così dire ravvivando il dolore di migliaia di parenti delle vittime del mesotelioma polmonare dovuto all'amianto, ma all'asbesto. Detto tutto questo, io scrissi anni fa, ma sono l'ultima ruota del carro, che la fattispecie per la quale procedeva la procura di Torino, il dottor Guariniello, era una fattispecie che secondo il codice penale vigente era prescritta. All'atto dell'inizio del procedimento era già prescritta, cioè non dopo il giudizio di primo grado o di secondo grado, era prescritta all'inizio delle indagini, cioè quella del danno ambientale, perché quella fu la fattispecie, danno ambientale grave, continuato, eccetera, eccetera, con tutte le aggravanti, sulla quale il processo è stato istruito. La Cassazione, a distanza di anni, dal 2009, si è pronunciata ieri, e anzi dovremmo dire persino non troppi rispetto alla media italiana, ha ribadito questa tesi e ha detto no, il reato era già prescritto. E Guariniello adesso dice va bene, procedo allora per omicidio. Naturalmente omicidio è, per molti versi ha diversi termini di prescrizione, è più complicato da dimostrare per migliaia di casi, io lo capisco questo, però la domanda è, poiché io sono molto colpito dal fatto che noi a migliaia di familiari li abbiamo messi in croce per l'ennesima volta e li abbiamo potentemente, come è giusto, alimentato la sete di giustizia, di risarcimenti e così via. Ecco, ma in un caso come questo, cioè applicando una fattispecie che era già prescritta, si rientra nei limiti della nuova disciplina oppure no? Non lo dico a fini persecutori, Dio me ne guardi, nei confronti del dottor Guariniello e di chiunque altro, è solo per capire meglio di che cosa stiamo parlando. La risposta del Presidente dell'Unione Camera Penale, però dopo 60 secondi di informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, siamo tornati in diretta a parlare della nuova regime di disciplina della responsabilità civile dei magistrati, loro la ritengono incostituzionale, io ho tentato di spiegare il perché, loro dicono che si entra nel giudizio della libera giurisdizione con questa nuova fattispecie del travisamento del fatto e delle prove, che anche l'abolizione del filtro è grave perché espone ad azioni intimidatorie ripetute, per così dire. La domanda che ho fatto è quella sul caso Eternit, ma se un PM fin dall'inizio incardina un procedimento con una fattispecie che la Cassazione poi, prendendo il codice in mano, no? Con un'interpretazione che mi lascia particolarmente sorpreso, dice che è prescritta, in quel caso è un travisamento grave del fatto oppure no? E dunque, premesso che non è mai serio esprimere giudizi quando non si conoscono tutte le carte di un procedimento, di un processo, io riterrei che sarebbe molto complicato per due ordini di ragioni. La prima perché non si può dar luogo a responsabilità, come dicevamo, per l'attività di interpretazione di norme di diritto quando non vi sia del dolo. E poi io ritengo che questo riguardi più che altro la decisione, certo, e cioè il travisamento, esatto, del fatto, delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto. In sede giudicante. Dobbiamo ricordare che c'è sempre poi un giudice, esatto, che di merito. Meglio se il giudice fosse terzo e separato nelle carriere, però c'è un giudice che poi valuta se l'azione penale sia stata esercitata. Sono d'accordo con lei e ho fatto apposta questo esempio per far capire che in ogni caso non siamo in presenza di una norma, per così dire, che consente di buttare tutto per aria con tanta facilità. Sentiamo come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Tonia da Taranto. Sì, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Complimenti intanto per l'argomento che state affrontando. Io sono una semplice cittadina e ho francamente capito benissimo dalla tua spiegazione, ti do del tu, scusami. Ci riego, prego. Cioè, la spiegazione iniziale è stata chiara, la grazie posizione. Ora, io non voglio entrare adesso nel tecnico, come cittadina comune mi viene da pensare che con questa premesso che in Italia le responsabilità diventa carta straccia, è diventato un optional per qualsiasi argomento o situazione, diciamo, è venuto fuori una cosa del genere, vero? Poi per quanto riguarda questa fattispecie, cioè il sospetto e la preoccupazione mi viene dal fatto che quando entriamo in queste faccende così delicate, sì, e c'è la responsabilità personale del magistrato, cosa può accadere? O che i processi siano fatti all'acqua di rosa per evitare di incorrere in sanzioni. Cioè tu dici quando si troveranno a giudicare interessi pesanti di gente che ha molti soldi ci penseranno più di prima. Pensi, io faccio semplicemente un esempio. Nella scuola dove io ho lavorato come insegnante, nel momento in cui, adesso sono in pensione, nel momento in cui entrarono in vigore riscontri rispetto a quanti alunni venivano promossi o quanti alunni, sì, venivano bocciati in una controlli, classe, sì, eh? La responsabilità doveva ricadere sull'insegnante, perché se c'erano, sì, tanti ciucci, insomma, detto proprio in maniera banale, è giusto, mi sembra, dicevo la colpa era dell'insegnante, sì, l'insegnante in quei casi, non faccio un caso mio perché io ho insegnato benissimo fino all'ultimo giorno della mia carriera, però c'erano casi in cui i docenti, per non essere accusati di non promuovevano tutti, tutti. Abbiamo avuto, allora, Tonia è preoccupata, per così dire. Sentiamo Andrea da Roigo. Buonasera a tutti quanti. Sì. La mia impressione da utente normale o da cittadino è che sia la solita italianata. Mi sembra una cosa molto all'acqua di rose, che alla fine non colpirà nessuno, che poi sia un altro giudice che deve giudicare un collega. Il giudice la dice lunga. Cioè lei avrebbe preferito quindi la responsabilità diretta, non mediata dallo Stato, con lo Stato che fa giudizio di rivalsa. Non è lo Stato può rivalersi. Certo. Ho capito cosa dice. Lei sa che questa norma fu approvata per errore in Parlamento a giugno del 2004, l'aveva proposta un leghista Pini, poi a settembre, nel giro di poco tempo, il governo la ribaltò, perché naturalmente c'era stata l'insurrezione, questa della responsabilità diretta, appunto, del magistrato. Sentiamo Roberto da Firenze. C'è ancora Roberto? No, non c'è pure. Non c'è. Allora, no, una cosa. Ci sono. Ah, prego, allora vado. Allora, una cosa veloce sul primo intervento della signora. Il giudice sa cosa andrà a fare, quindi se ha paura di scontrarsi con interessi interessanti. Cambi mestiere, pesanti, dici tu. Non lo faccia nemmeno, perché se no. Allora, mentre. Sempre su un caso concreto, cosa sarebbe successo con questa nuova legislazione rispetto a un caso Tortora, per esempio? Cioè, che tipi di responsabilità? Ecco, buona domanda. Sul caso Tortora che dice Beniamino Migliucci, il presidente di una Camera Penale? In quel caso sarebbe stata applicabile? Ma io volevo dire due cose. Intanto la signora, se consente, che la responsabilità non è personale, quindi non dobbiamo dire cose inesatte. Secondo, che c'è una sentenza molto importante della Corte Costituzionale, datata, ma che deve essere compresa da tutti, che dice che il magistrato è soggetto alla legge, alla Costituzione, esatto, che sancisce a un tempo il principio di indipendenza, ma anche quello di responsabilità. E su questo mi sembra che noi su questo dobbiamo chiudere, vedrete che se ne parlerà molto. La mia ultima domanda, ma ve la affido a voi ascoltatori: pensate se l'avesse approvata Berlusconi questa norma, cosa sarebbe avvenuto? Però detto tutto questo, non ci deve interessare questa cosa, ci deve interessare se la cosa funzionerà meglio e se quello che paventa la magistratura ha qualche fondamento. Lo vedremo nella applicazione, sempre che poi il Parlamento la lasci così come ovvio. Intanto continuate con Radio 24, grazie al Presidente dell'Unione Camere Penali, appuntamento come a domani.